Lui è direttore sportivo, io sono uno dei dirigenti. Si va? Ah, la battuta, Fumino, battiamo la battuta? Andiamo, andiamo, iniziamo questa puntata. Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento della serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila, direttamente dalla Galleria San Lorenzo di Montevarchi, in pieno centro storico di Montevarchi. Questa sera abbiamo con noi due ospiti che ci racconteranno di una nuova realtà legata all'Aquila 1902, una realtà nascente, una realtà di calcio femminile, Fumino. È proprio così, stasera gli ospiti sono il direttore sportivo della società femminile e un dirigente della società femminile, in ordine Jacopo Poggesi e Marcello Sani. Ma prima di tutto ringraziamo il nostro regista di stasera, ovvero Sergio Martino. Bene, partiamo dal direttore sportivo. Jacopo, raccontaci un po' come è nata questa nuova realtà nel panorama calcistico cittadino. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. È nata un po' per scherzo, un po' per gioco, poi dopo diciamo che con la società ci abbiamo creduto fino in fondo e alla fine l'abbiamo portata avanti. È una cosa nata nel maggio del 2016, alla fine quindi della stagione 2015-2016, presi dall'idea di poter creare una cosa che fino a quel momento a Montevarchi nessuno ci aveva pensato, anche se avevamo la realtà di San Giovanni che già da 2 anni faceva calcio femminile. Si è detto, ma perché San Giovanni e Montevarchi no? Che siamo noi in meno? Assolutamente, siamo sempre di più di loro, quindi era giusto farla anche da noi. E ci abbiamo provato, non è stato facile, anzi posso assicurare che l'estate del 2016 per questa nuova società è stata incredibile, perché a maggio eravamo, diciamo, sicuri, certi di partire, avevamo contattato un gruppettino di ragazze, però poi è calcio, quindi calcio femminile vi posso assicurare che per questo è molto simile al maschile, quindi calcio mercato, affari, diatribe con altre società e tutto. La cosa è lì, è un particolare che almeno personalmente, per esserci stato dietro così tanto, mi ricorderò per sempre, è che abbiamo sbloccato, diciamo, ci siamo iscritti l'ultimo giorno disponibile per le iscrizioni, perché la sera prima da una squadra di 8 giocatrici sono riuscito a trovarne altre 8 all'ultimo momento, la sera a mezzanotte e mezzo ne ho convinte altre 8 per poter partire e la mattina abbiamo fatto l'iscrizione. Quindi questo è come è partito l'Aquila femminile. E bene, molto interessante, magari poi dopo approfondiremo un po'. E Marcello, una domanda che mi viene di farti. Io ti vedo da sempre in campo con la tua fida macchina fotografica a riprendere quello che succede sia nel rettangolo di gioco ma anche quello che succede sugli spalti e particolarmente in curva sud. Che differenza fa trovarsi ad un certo punto al di là della barricata? Ma guarda, io nel Montevarchi dentro gli spogliatoi è tanto, e ci sono di società, ne ho viste tante, quindi ci avrei da raccontare tante cose. È stata un'emozione grandissima, perché in società, diciamo, adesso ci sono tutti amici miei, coetanei miei, quindi mi hanno trascinato un po' in questa nuova avventura. E io lo faccio molto volentieri, anche se non li lascio mai soli di foto, diciamo, si guarda sempre di tappare un po' di qua e di là, però questa esperienza qui è un'esperienza bella, un'esperienza che mi dà stimoli, la faccio volentieri e penso che per Montevarchi sia una cosa sia nuova e sia bella, e va tutto a maggior beneficio di tutta la società. Quindi ora faccio una domanda un po' effimera. Quanta montevarchinità c'è dietro l'idea di fondare la squadra femminile? Ce n'è tanta davvero, perché guarda, io ti posso dire che nei bar io vivo molto del tessuto, diciamo, e questa novità è stata apprezzata bene, è stata una novità bella, perché anzi anche troppo, perché senti, quando gioca la prima squadra fuori la seconda domanda che viene fatta, che hanno fatto le ragazze, quindi vuol dire che piano piano riusciamo a coinvolgere anche i tifosi, anche le persone e anche le donne che mi chiedono queste cose qui, e sono molto contenti di avere una squadra femminile, anche se non sono mai venuti alla partita, diciamo. Tra l'altro, coinvolgere le femmine nel giocare a pallone o nel seguire una squadra di calcio è un compito un po' arduo, però diciamo che anche la partenza di queste ragazze della nuova squadra femminile del Montevarchi è stata entusiasmante, perché mi sembra, se non erro, che siano già arrivati dei buoni risultati in Coppa. È così, Jacopo? Sì, no, infatti l'anno scorso è stato il primo anno e quindi era tutto in divenire, era tutta una prima esperienza, quindi anche obiettivi societari non ce n'era, era giusto partire con calma. Quest'anno, come giusto che sia, di pari passo con la parte maschile di questa società e quella giovanile, anche le ragazze era giusto che alzassero un pochino l'asticella. E quindi abbiamo alzata sia a livello di, insomma, tasso tecnico, anche di giocatrici e tutto. E la prima soddisfazione è venuta proprio a inizio stagione, perché due settimane fa siamo riusciti a conquistare l'accesso alla finale di Coppa Toscana, anche se di Serie D, ma per una squadra che è nata da 2 anni e ha una media età di 20 anni, diciamo, non è poco. Quindi la soddisfazione è che ci andremo a giocare questa finale di Coppa alle due strade, come ha fatto il Montevarchi l'anno scorso in Supercoppa, e magari ci dice bene. E quando sarà giocata la finale? Allora, molto probabilmente verrà giocata a fine campionato e quindi intorno alla metà di aprile, sempre lì alle due strade, al campo ai Bozzi di Firenze. No, io, se mi posso permettere, allargherei l'invito a tutte le persone che ci ascoltano a partecipare a questa partita, quantomeno, visto che sicuramente, almeno io lo posso testimoniare perché abito vicino allo stadio, e quando giocano le ragazze sento, perlomeno quest'anno, rumori crescenti rispetto all'anno scorso, quindi probabilmente il seguito si sta lentamente allargando, come è giusto che sia, in maniera progressiva per una realtà nuova. Sicuramente l'occasione, seppur in trasferta a Firenze alle due strade, di vedere la squadra cittadina femminile giocarsi un trofeo, che è sicuramente importante, vista anche la giovinezza, diciamo, della squadra nata da Po, dovrebbe essere di spinta per tutti i montevarchini per andare a partecipare. Almeno io mi prendo l'impegno personale di andare, anche te, Fumino, no? Mi auguro proprio che sia così. E Jacopo prima ci ha parlato del calciomercato e di quello che succede intorno alla costruzione di una squadra femminile, che è molto similare a quello che riguarda il calcio maschile, ma è così anche per quanto riguarda lo staff, ad esempio allenatore, secondo allenatore, massaggiatore, medico e tutto quanto. È presente anche nel calcio femminile, così proprio dalla A alla Z? E se ci sono, citiamo anche chi sono, ad esempio l'allenatore. Ma senti, ti ringrazio di questa domanda, perché mi dà modo di spiegare un po' quello che è successo con questo entusiasmo di fare questa avventura, diciamo. Perché noi, sinceramente, io e Stefano Brocci siamo quelli che designati a fare questo passo, eravamo un po' titubanti, anche nel senso che volevamo partire anche un po' in sordina, cioè chiamarsi affiliati alla società Aquila Montevarchi 1902, chiamarsi Audas, chiamarsi, per essere affiliati a... La società ci ha risposto, dice: no, voi se iniziate vi chiamate Aquila 1902 Montevarchi. È stato un bel colpo, un bel colpo di responsabilità, diciamo, addosso. Però devo dire che abbiamo alle spalle una società forte, abbiamo alle spalle uno staff medico, uno staff tecnico che usufruiamo anche noi. Quindi siamo avvantaggiati e stimolati a fare sempre meglio. Un onere, ma anche un onore, proprio sì, perché certo. Da un certo punto di vista le strutture sono sicuramente super di qualità, perlomeno rispetto a quella che poteva essere una partenza da zero. Ovviamente un onore ulteriormente, vista anche la storia della società e il nome. Senti veramente la pesantezza del nome della società, e anche le ragazze lo sentono. Ecco. Io vi do un aneddoto, perché il calcio femminile, il ganzo di calcio femminile, che la Serie A è vicina, Cioè, te un giocatore di Serie A, ora per incontrarlo tu dovresti fare salti mortali. Una giocatrice di Serie A, un dirigente di Serie A femminile, e ci sta di trovarla ai bar davvero fuori da uno stadio di Serie A. Quindi è tutto un altro mondo. E vi posso dire che l'anno scorso sono stato in contatto con quello che è responsabile di mercato. Una volta era di Verona, ora è di Brescia, un ragazzo di Firenze, prima era della Fiorentina, chiedendo qualche consiglio, perché comunque non si può crescere come società, è giusto chiedere a chi ne sa di più di noi. Mi ha detto una serie di cose, che ha detto che secondo lui bastavano già per la serie dove sera per far felici e per far acchiappare e per far invogliare le ragazze a venire a Montevarchi. E la mia risposta è detto, ma questa non ci sa di già. Ad esempio uno staff medico che segue le ragazze, delle strutture, tutto pagato, tutto... E ha fatto, no, a Montevarchi già si garantisce. Di là mi hanno detto allora siamo un pezzo avanti, quindi comunque anche queste sono soddisfazioni, perché queste stanno in Serie A e Champions League, quindi... E infatti io mi ricordo che quando abbiamo giocato l'anno scorso la finale di Supercoppa Toscana per aver vinto il nostro girone di eccellenza, c'era a seguire la partita una ragazza che parlava nordico, e allora la nostra curiosità fu di chiederle per quale motivo fosse a vedere quella partita, e lei ci disse che era una calciatrice della Fiorentina in quel momento e che quindi, appassionata di calcio, era lì per vedere il Montevarchi. Ma tornando un attimo a una cosa che ci avevi detto all'inizio, Jacopo, io ero curioso di sapere com'è che è funzionato il reclutamento delle giocatrici partendo da zero il primo anno e poi dopo i risultati del primo anno, se avete fatto dei cambiamenti, come vi siete mossi per prendere ulteriori nuovi giocatori nella vostra seconda stagione. Una buona dose, e qui almeno faccio un po' di ruffione anche con voi, però la Montevarchinità un po' ne ha influito, almeno all'inizio. Perché la base iniziale di quelle ragazze si è trovata inizio 2016, insomma l'estate del 2016, sono ragazze di Montevarchi che giocavano, ahimè, di là dalla Gruccia, e quindi non avevano, cioè, a far la squadra a Montevarchi non potevano cogliere l'occasione al volo, quindi hanno detto subito di sì. Poi vabbè, e via dicendo, nel senso, abbiamo reclutato, come ho detto prima, addirittura all'ultimo momento 8 ragazze provenienti da una squadra di calcetto dell'Oratorio di Sant'Andrea. Prende trasferita completamente una squadra e far comunque anche convincere 8 ragazze fino a quel momento, insomma, ha disputato un campionato amatoriale di calcetto, farle venire a giocare a calcio a 11, impegnarle tutte le domeniche, perché son ragazze, ma qualcuna è anche abbastanza casalinga, quindi magari il pranzo della domenica in famiglia e tutto, saltarlo per un panino prima della trasferta non è una cosa da poco. Però ci si sono buttate tutte in maniera molto, molto tranquilla e serena, e quest'anno, avendo dimostrato che a Montevarchi, oltre che una società, una grande società, siamo anche, si può dire, il nostro piccolo, una bella famiglia, si sono attirate anche altre ragazze, oltre poi il nome e comunque il progetto, perché a questo punto si cerca di essere seri, siamo seri in tutto, e quindi siamo seri in tutti i settori. E quindi diciamo che la scelta di non farvi partire come affiliati, ma farvi partire direttamente come parte della società, è stata vincente proprio per quella dose di montevarchinità che questo nome si porta dietro e queste maglie si portano dietro, permettendo a voi come settore femminile di ritrovarvi già in impianti sportivi e in situazioni per allenarvi che sono molto migliori rispetto magari a quelle che vivono altre realtà femminili della vostra stessa categoria. Ma secondo voi, se la struttura principale di Montevarchi, che ospita il calcio, fosse migliorata e fosse resa ancora più accessibile, per voi sarebbe un ulteriore salto di qualità, come lo sarebbe anche per il calcio maschile, permettendovi poi magari di convivere proprio a tutto tondo nelle stesse strutture. Lo vedete possibile questo? Ve lo auspicate oppure sono solo sogni? No, sono, diciamo che cominciamo a sentire delle realtà, perché il progetto antistadio speriamo che vivamente prenda la sua collocazione, e da qui avremo non solo per il femminile, non solo per la prima squadra, ma su tutto il settore giovanile avremo un salto di qualità notevole, perché già abbiamo una struttura dietro bella e solida, fatta, mi permetto, di persone veramente, veramente professionali, che danno l'anima per il Montevarchi, sentono tutti allo stesso livello la pesantezza della società. Voi pensate, il dottore che usufruiscono le ragazze è il dottore della prima squadra, il massaggiatore è il massaggiatore della prima squadra, Fabrizio Cingottini, che viene da due campionati con il Siena con Antonio Conte. Insomma, non sono cose da poco avere una struttura che penso che con noi, se riusciamo, se la società riesce a fare questo centro sportivo, allora cambierà tante cose. Tra l'altro io personalmente credo davvero che l'esperienza sia super positiva e sia anche a completamento di quello che è stata la rinascita societaria dalle ceneri di anni di mala gestione, la ripresa del settore giovanile, che è secondo me un'altra opera bellissima, geniale, della società stessa, e poi l'aggiunta del femminile secondo me serviva proprio a completamento per poter pensare di andare avanti a passi ampi, larghi, verso un futuro dove il centro sportivo può essere la panacea di tutto questo. Ma tornando un attimo alla realtà quotidiana che voi due, che siete uomini, vivete allenando o comunque gestendo un gruppo di giocatrici, quali sono le differenze rispetto al calcio maschile e al calcio femminile a livello proprio di gestione? Differenze ce ne sono, come è giusto che ci siano, perché effettivamente sono due settori un po' distanti sotto il piano fisico, sotto il piano mentale, soprattutto mentale, perché non è mal di niente a dire nella quotidianità gestire una donna è difficile, in un campo di calcio è ancora più difficile, perché è già difficile gestire gli uomini. Quindi la scelta nostra, la mia scelta, oltre che fare un progetto, quindi di gente che sente questa cosa propria, quindi che era giusto cominciare insieme, è stata quella di affidare la panchina non a una persona sola ma a due persone, come la Fiorentina femminile ha due allenatori, magari uno è un po' più in prima visione, l'altro un po' dietro, però anche perché gestire un gruppo di, fate il conto, quest'anno siamo 25-26 ragazze, è tosta. E poi io faccio sempre il paragone, una squadra femminile di come noi è come gestire un gruppo di giovanissimi, e un gruppo di giovanissimi è difficile da gestire perché è il periodo dell'adolescenza, e praticamente io penso che le donne in un campo di calcio siano come un ragazzo in piena adolescenza, quindi bisogna stare un po' attenti, bisogna diciamo essere pacati, cercare di spiegare bene tutto. Però è fattibile, anche perché la fortuna ci sa a noi, che ci sa ragazze giovani che hanno voglia, che gli piace, stanno bene insieme, quindi sotto questo punto di vista viene tutto più facile. Ma anche a livello di gioco, perché a me piacerebbe sfatare, sicuramente lo sfaterete raccontandocelo, quel mito per cui le donne di calcio non ci capiscono niente. Evidentemente mi immagino che le ragazze che giocano si intenderanno di tattica, di struttura, o quantomeno lo staranno apprendendo. Da un punto di vista proprio anche tattico, com'è che cambia la partita tra il maschile e il femminile, e quanto è difficile o facile insegnare il calcio nelle sue proprio strutture tecniche essenziali ad una donna, visto che si sostiene sempre, sbagliando sicuramente, che le donne di pallone non ci capiscano niente? Ecco, noi non so se siamo una realtà a parte, io penso a queste categorie un po' più basse, quindi per le serie C e serie D, almeno in Toscana, penso che si stia lavorando bene, perché avendo la fortuna diciamo di essere dall'inizio, noi è una tavola vuota, e quindi si scrive tutto, e quindi da nuovo, e quindi anche insegnare a queste ragazze, ad esempio siamo una delle poche squadre, se non l'unica, che gioca un 3-5-2. 3-5-2 ora è un modulo di riferimento di tutti, ma è assolutamente facile, e ci si sta provando, e quindi per forza di cose stanno cominciando a prendere anche delle nozioni tattica e tutto, e poi comunque sono appassionate loro, quindi di calcio ne masticano, il che potrebbe essere un problema per gli allenatori, perché se sbagliano poi dopo vengono bacchettati, o comunque le polemiche ce l'hanno ancora più pese nei maschi, perché le donne da che mondo è mondo sono più polemiche ancora. E quindi diciamo ci sa delle calciatrici sotto questo punto di vista esperte. Qui interviene anche la società, l'esperienza della società, i consigli della società, di fare una cosa molto importante, specialmente con le donne, tenere molto il gruppo. Tenere molto il gruppo significa coinvolgerlo, significa... E qui diciamo che sono molto contento di averlo abbiamo fatto, anche perché noi l'anno scorso avevamo 20 ragazze e ne abbiamo prese altre 6, mi sembra, altre 5-6. E noi gli abbiamo detto chiaramente c'è cioè, chi giocherà, chi non giocherà, però noi non abbiamo mandato via nessuno. Chi vuole rimanere, rimane, anche se gioca poco, anche può rimanere. Ecco, sono rimaste tutte e questo ci fa onore, diciamo, ecco. Sembra proprio una prima vittoria, quantomeno della società, proprio nei confronti delle ragazze che si avviano ad intraprendere questa nuova avventura con la maglia dell'Aquila. Visto che hai detto che queste ragazze sono ben volentieri rimaste tutte, pur magari alcune essendo coscientissime del fatto che quasi mai magari scenderanno in campo, però sono rimaste. Quanto questa cosa si può riportare alla Montevarchinità? Tanta, perché qui vedi l'attaccamento veramente alla maglia. Vedi l'attaccamento alla società, vedi l'attaccamento ai dirigenti, vedi l'attaccamento a tutto lo staff. Perché, lo vedo anche con lei, quando uno non si trova bene in un ambiente, se ne va. È inutile andarci a parlarci su. Se sono rimaste vuol dire che ci stanno bene. Io vi faccio una domanda personale a entrambi, mi risponderete ognuno. Cosa chiedereste alla città in relazione a questa esperienza? Perché chiaramente è l'inizio, ci avete tante situazioni positive nel contorno che vi stanno aiutando e che stanno aiutando le ragazze a integrarsi e a proseguire in questa strada, però in un certo senso avrete qualcosa forse da chiedere alla città per fare in modo che la partecipazione aumenti e che quindi di conseguenza lo sviluppo di questa realtà possa proseguire tanto rapidamente come apparentemente è iniziato? Principalmente, più che soffermarmi sulla stagione, quella di ora e tutto, quindi chiedere qualcosa nel momento, che si è intrapreso noi è cercare quello di far sì che questa realtà cresca all'interno di Montevarchi e quindi che sappiate che più donne masticano di pallone forte, più Montevarchine attaccate anche alle sorti della nuova squadra, alle sorti della società in generale ci saranno. E quindi secondo me, siccome il calcio non è più il calcio di una volta, il calcio ora è donna, uomo, è di tutti, è giusto che si incominci magari a sfatare il luogo comune, quindi mamme e babbi incominciano, se una bambina ti gioca al parco con i maschi o a scuola e magari ci vedano qualcosa e gli piace più tirare un calcio a un pallone che stare a cinguettare, e dice portarla a Montevarchi, ora c'è la possibilità. Perché secondo me è quello, più ragazze si avvicinano a questo mondo, più noi cresciamo, più ragazze si appassionano e quindi magari ci sarà anche più coinvolgimento anche allo stadio e tutto. Io vi dico solo che le squadre che vengono a giocare contro di noi, appena mette il piede ai Belliferi, ci rimangono male. Addirittura i dirigenti, quando chiamano per sapere dov'è lo stadio, fa: ma dove bisogna venire? Qual è il campo? Il campo è lo stadio comunale di Montevarchi. Ah, come ha fatto? E tutte vengono lì, ma squadre tranquillamente, qualcuna ora ce l'hanno detto, anche squadre ora sono in Serie B, che sono a vagare fra campi e campi. L'Arezzo, ad esempio, è una squadra a cui noi ci stiamo facendo una squadra di giovanissime insieme, stanno a vagare da campo a campo. Noi si gioca i Brilliperi, loro il comunale non piede, ce lo mettono. Quindi sono cose importanti. Un'iniziativa, e qui vedi anche la montevarchinità da parte della società, perché quest'anno abbiamo un'iniziativa che è stata espressa proprio per aiutare il calcio femminile. Tutti i possessori dell'abbonamento della prima squadra possono venire, quando la prima squadra è fuori e che non la seguono, possono venire con l'abbonamento e entrano gratis a vedere le donne. Quindi è una cosa in più, diciamo, per coinvolgere più persone. Penso che sia stato, che sia bello quello, questa iniziativa che ha fatto la società. E tornando a iniziative, una cosa a cui ha accennato Jacopo e che vi domando: state in parte anche sfatando, non lo so, grazie a, al fatto che il calcio in questione è quello femminile, quindi non lo so, la, come si potrebbe dire, l'influenza del gentil sesso da un certo punto di vista, vi porta a, ad avere iniziato una collaborazione dal mio punto di vista molto importante con una società che calcisticamente nella storia di Montevarchi è una società rivale, vale a dire l'Arezzo, però voi avete unito le forze per creare un settore giovanile, almeno per una categoria di un, del settore giovanile, vi siete messi insieme e per proprio andare avanti e cercare di tirare fuori da questa esperienza il meglio sia per Montevarchi che per Arezzo in questo caso. Raccontateci un po' come è nata l'idea e che tipo di problemi, se ce ne sono stati, avete incontrato e i risultati che via via state vedendo. Ma io ti posso dire dal lato del societario, per me è stato un salto di qualità, un salto di intelligenza molto grosso. Questa coinvolgere per, anche per non perdere le ragazze, per farle giocare, per fargli fare un campionato, questa sinergia per me a livello societario parlo, è stata molto bella per me. No, è importante anche perché, come ho detto prima, ancora le forze, immaginate fra Arezzo e Montevarchi quante città e quante società ci sono, e le forze di fare una società unica di bambine per fare un campionato di giovanissime non c'era, addirittura giocavano a 9, quindi immaginate la difficoltà. Unirsi è stato un sfatare un tabù, perché Montevarchi con l'Arezzo effettivamente ha una, diciamo, una storia particolare, però il femminile si va oltre. Come ho detto prima, per incontrare una giocatrice, un allenatore, un dirigente Serie A è più facile anche magari unire società, diciamo fra virgolette, nemiche è più fattibile. Questo è stato bello, è stato facile da realizzare all'inizio, diciamo è non complicato ma impegnativo portarla avanti, perché comunque le ragazzine si allenano una volta a Montevarchi, una volta a Arezzo, l'allenatore è un montevarchino, alcune giocatrici sono di Montevarchi, c'è degli spostamenti, comunque anche lì l'esperienza è bella perché comunque ti trovi a giocare contro Fiorentina, Pistoiese, Empoli, Perugia, Livorno, c'è soddisfazione, cominciano sono esperienze e poi dopo te le porti, poi ti appassioni per forza il calcio. Ma torniamo un attimo a parlare proprio di campo e quindi a parlare a livello tecnico, anche se più che altro la mia domanda riguarda le malizie. Nelle scuole calcio ai bambini viene insegnato probabilmente fin da piccolo a buttarsi, a simulare, a cercare di trarre vantaggio anche da situazioni che poi effettivamente non si manifestano. Esistono anche questi piccoli trucchi che vengono insegnate nella scuola calcio femminile, o quantomeno le donne, sempre per luogo comune, si considerano piuttosto furbette, piuttosto maliziose rispetto a noi maschi che siamo un po' più tontoloni, almeno io. Quindi di conseguenza l'hanno magari innate queste malizie sul campo da gioco. E poi un'altra piccola domanda che io avevo da porvi: quanto è fisico il gioco del calcio femminile? Cioè si picchiano come si picchiano i maschi? Allora senti, rispondo io, poi risponderà Jaopo perché è più tecnico. Ma io non credevo veramente tutto questo agonismo. Non pensavo. La cosa che ti fa ridere è le simulazioni non esistono. Quella prende la botta, oi oi, si rizza e via. E poi la dà. Cioè è una cosa che io non credevo. Credevo, come avevi detto te, ci fosse più scena. Beh, invece sono tremende. Nel senso, l'orgoglio di combattere l'orgoglio della donna ci supera largamente, ragazzi. Ma effettivamente era prevedibile, nel senso, magari l'orgoglio di primeggiare, di combattere, di rispondere al colpo supera anche quello di trarre vantaggio furbescamente, come invece noi pigri furbacchioni maschi siamo tendenti a fare. No, ma anche i tempi di gioco, la perdita di tempo, una donna, penso io, probabilmente è tutto collegato alla quotidianità, perché la perdita di tempo per la donna c'è in alcuni casi, ma in altri non c'è assolutamente. In quel caso lì, nel campo di calcio, non c'è perdita di tempo. Quindi puoi vincere 3-0 e magari di calma, ora cioè si tira il fiato, perché magari in panchina o in tribuna non ci sa da tirare il fiato, no, in campo no, a diritto vanno. Quindi pedate, spintoni, tranquillamente anche, cioè ora in un derby magari si vede ancora di più, ma negli ultimi derby della stagione passata di interventi belli se ne sono visti, ma interventi tranquillamente, se succedono in maschile sono interventi se ne parla un mese, quindi e lì però si rialzano magari... Noi l'anno scorso abbiamo avuto dei casi allucinanti, per farvi capire che le donne non sono femminucce ma sono donne, eravamo una rosa di 20 persone in una stagione è lunga. Ci sono persone che sono state infortunate a ginocchia, infortuni muscolari e tutto, ritornavano in campo grazie alle cure di medico e tutto, ma infortuni è un uomo probabilmente sta fuori un mese o due mesi. Addirittura il capitano si è cascata di motorino e si è rotta praticamente degli ossi di piede, è stata ingessata per 2 settimane, si è levata il gesso e poi è stata in campo per il derby, ma non solo, anche le altre, il tempo di 2 settimane loro addirittura non vogliono a volte farsi controllare perché ci hanno voglia di giocare. È bellissimo il fatto che comunque l'essenza evidentemente dello sport e dell'agonismo, tralasciando tutto quello che di brutto probabilmente c'è intorno a una partita di pallone, viva nel calcio femminile, dovrebbe essere un incentivo ulteriore a seguire l'Aquila femminile. Tra l'altro, come sarebbe bello, Fumino, se contrariamente sempre ai luoghi comuni, un domani, magari fra 5 anni, le mogli volessero andare allo stadio a vedere l'Aquila femminile e i mariti sbuffassero perché magari vogliono andare a comprarsi le scarpe. Questa è bellina, sarebbe un bel cambio di paradigma, su questo non ci piove. Oh, a me personalmente mi carpano, prendi le scarpe, sicché io, nel senso. Jacopo, ci hai parlato dell'aspetto principale nel comportamento delle ragazze che giocano a calcio, e vale a dire che non perdono tempo, che non si tuffano, ma è vero che le partite o per colpa di una squadra o per colpa dell'altra iniziano sempre con qualche minuto di ritardo? Ci sta che qualche minuto di ritardo ci sta, perché effettivamente a Montevarchi è stato, a un certo punto mi ricordo, era stato levato lo specchio, non so per che motivo, e qualcuna si era arrabbiata perché ora non perdono tempo in campo, magari hanno forza, hanno voglia di giocare, però o la treccina o sistemarsi prima di una partita, probabilmente se non c'è Marcello a fargli le foto forse un pochino meno, ma se c'è Marcello a fargli le foto devono essere perfette. E questo lo fanno anche i calciatori di Serie A, che ormai sembrano pronti per fare degli spot pubblicitari piuttosto che per giocare una partita di calcio. No, e tra l'altro io avevo prima sgranato gli occhi quando avevi parlato proprio della non perdita di tempo in campo, perché io le donne ho avuto, comunque ho frequentato solamente per vestirsi, fa conto ci voleva sempre mezz'ora, 40 minuti di ritardo calcolato, mi sono immaginato 25 ragazze si devono togliere i vestiti borghesi e prepararsi per scendere in campo, mi sono quindi immaginato ritardi incredibili che lì per lì mi avevi smentito, invece in realtà effettivamente ci sono. Comunque, concludendo questo momento simpatico, dove probabilmente se si ritrova archeggiatrice per la strada ci piglia anche un paio di labbrate, un'ultima domanda a entrambi, anche questa: dove vi augurate di vedere l'Aquila femminile fra 5 anni? Diciamo, questo è un progetto che me lo sento proprio dentro, perché sono stato anche prima a avanzarlo, quindi per forza di cose ci sono legato particolarmente, e da fra virgolette direttore sportivo una cosa abbastanza particolare anche questa da appellarsi, però fra 5 anni sinceramente io come gli altri dirigenti la voglia sarebbe quella di portarla abbastanza in alto. Ora c'è stata una riforma, quindi ci sarà anche una serie in più, ci sarà anche l'interregionale e tutto, però l'età della squadra ce lo concede, la voglia c'è, la società è grande, se ci si fa un bello stadio, un bel antistadio nuovo, a quel punto sì che si fa, il sindaco è donna quindi ci deve dare una mano. E quindi io me lo immagino in alto, più della Serie C, e quindi poi a quel punto anche Montevarchi maschile ci dovrà dar dietro, perché l'anno scorso noi in Serie D in eccellenza ci hanno raggiunto, quest'anno si prova la Serie C, magari ci raggiungono e via dicendo. Questo è stato il ritornello di l'anno scorso, quando andavo con la prima squadra, cioè, ma che hanno fatto le donne? Hanno perso, capitava molte volte, hanno perso, però noi siamo in Serie D, proprio avanti di voi, siete voi e ci dovete raggiungere. Bene, e con queste ultime battute scherzose io ringrazio i nostri ospiti di stasera, Marcello Sani e Jacopo Poggesi, ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Big World e il nostro mentore, santo subito, Stefano Neri, che ci concede alla grande, è un amico speciale, ci concede l'utilizzo della Galleria San Lorenzo dalla quale registriamo in pieno centro storico di Montevarchi. Ringrazio il nostro regista di stasera, Sergio Martino, e ringrazio il mio compagno di volo alla ricerca della montevarchinità, Julian. Nel ribadire tra parentesi che sempre sia lodato, santo subito, Stefano Neri, vi saluto, vi ringrazio perché è stata veramente una chiacchierata interessante. Ci sarà modo nelle prossime puntate di tornare a parlare dell'Aquila femminile, quindi grazie mille per la presenza e buonanotte. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie mille. A sesto, a sesto. Ma, la... ma te che ci fai? Mi ha detto, ma io ho un Serie A nella Firenze. No, è la cosa. Sì. È la Ferrandi e Giova a Firenze, alle due strade. Alle due strade, sì. La Supercoppa. Sì, la Supercoppa, alle due strade. È la cameriera di cosa? Qualcosa alla città gli vorreste chiedere? Vorreste, cazzo. Qualcosa alla città avreste... come cazzo lo coniugo? Avrete voglia di chiederglielo o no? Ma però ma è Stefano? No, cazzo. Sergio. È Stefano Martino. Cazzo di Belen. Ma chi è Sergio Martino? Come chi è Sergio Martino? Sergio Martino è il regista dell'allenatore del pallone, quanto l'hanno visto?